Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. La mail alla quale segnalare le vostre cose è molto semplice: un abuso al giorno @radio24.it. Per chi volesse appassionarsi ai temi che solitamente io tratto per il giornale Il Sole 24 Ore, di cui sono inviato, potete visitare il mio blog, che è Guardie o Ladri, sull'home page del Sole 24 Ore, oppure robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Se lo visiterete e lascerete dei commenti, mi farà davvero piacere. Allora, oggi trattiamo di un caso, devo dire, molto particolare. Come sapete, io invito sempre i radioascoltatori a mandare delle mail che non riguardino casi propri, perché quelli non interessano, ma casi che possono interessare una generalità. Devo dire che questo, pur essendo particolare, mi ha colpito. E spiego subito il perché. Intanto ci troviamo a Padova, quindi una città che è la capitale morale, possiamo dire, del Veneto, una città che produce un reddito rilevante per il nostro paese, una città che è e deve essere al passo con i tempi dal punto di vista dell'economia e della società. Poi mi ha colpito perché stiamo parlando, e adesso lo scopriremo dalla viva voce del radioascoltatore che ci ha scritto, stiamo parlando di un caso curiosissimo, vale a dire, in un quartiere cablato, quindi diamo atto di questo, c'è un condominio che è senza telefono e senza internet, ma non da oggi, ma ormai da mesi, e la cosa è davvero davvero curiosa. E per sentirla questa storia, per avere maggiori dettagli, noi abbiamo chiamato il radioascoltatore Tommaso Ferrarese. Buongiorno Ferrarese. Buongiorno. Allora, lei da quanto tempo è, lei e chi come lei si trova nella stessa condizione, senza telefono e senza internet? Allora, noi viviamo in un quartiere a 10 minuti dal centro e siamo senza internet da maggio, cioè da quando sono entrato nella casa nuova, dove peraltro nessuno mi aveva avvertito che mancava il collegamento fisico del telefono. Ecco, perché quello che manca è proprio, come dire, pochi metri di collegamento, se non erro. Questo è mancato fino a settembre, cioè il collegamento fisico è mancato fino a settembre, nonostante noi l'abbiamo richiesto più volte. Solo a settembre sono stati fatti i lavori per portarci il cavo fino a casa. Da settembre è iniziata la trafila per avere invece la linea. Questo noi abbiamo cercato di risolverlo con diverse compagnie, non con la Telecom, e ci è risultato a oggi impossibile avere la linea telefonica e quindi con essa anche la DSL. Ecco, ma c'è stato un amministratore di condominio che ha seguito la vostra pratica o l'avete fatto singolarmente? Singolarmente. La parte relativa al collegamento dei cavi è stata seguita dalla proprietà. Dopo che sono arrivati i cavi e quindi ci trovavamo in una situazione, diciamo, normale, cioè dover soltanto attivare la linea, la cosa è stata seguita singolarmente da noi. Ecco, ma adesso lei sempre deve telefonare, cosa fa? Usa il cellulare? Ovviamente uso il cellulare, sì. Ecco, a me questa cosa francamente, devo dire, non so voi cari ascoltatori, ma dire che è curiosa è dir poco, perché voglio dire, in un mondo globalizzato in cui Facebook, le mail, internet, una colleganza è un collegamento globale del mondo, è ormai all'ordine del giorno, sentire che a Padova, al centro di Padova, non ci sia un collegamento in una casa, francamente mi fa veramente pensare. Ferrarese, ma perché non vi siete rivolti a Telecom? Per una semplicissima questione di prezzo. Noi abbiamo provato le offerte che a noi interessavano, che erano prevalentemente riguardanti la DSL, perché il telefono è abbastanza secondario per i nostri interessi. Abbiamo valutato i prezzi, essendo che l'offerta Telecom mi costa esattamente il doppio delle altre. Ho preferito evitare. Ecco, e allora che cosa vi hanno risposto Tiscali e Infostrada? Lo dico io, i nomi delle due compagnie che avete contattato. Quali sono stati i problemi che avete incontrato nel contattare, nell'avere delle risposte da Tiscali e da Infostrada? Sono stati, con le solite lungaggini, reticenze, muro di gomma dei call center che contraddistinguono questo tipo di procedura. Il problema è stato sempre lo stesso, cioè dopo un mese e mezzo di telefonate da parte nostra per prima richiedere l'attivazione e poi sollecitare la stessa, la risposta è sempre stata che c'erano problemi tecnici. Fiscali non ci ha detto di che tipo, invece Infostrada alla fine ha rivelato dati dalla Telecom, cioè che la Telecom diceva che c'era un problema tecnico riguardante l'attivazione della linea. Questo per tre volte è stato detto da Wind, nel senso che loro hanno spiegato che per tre volte avevano chiesto l'attivazione della linea sul nostro, per la nostra utenza, certo. E per tre volte gli era stata negata. Questo con vicini di casa nostri che sono riusciti ad attivarsi Alice nello stesso tempo. Ecco, Alice ricordiamo che fa parte delle offerte Telecom. Allora, il caso è abbastanza chiaro e direi a dir poco curioso, forse per alcuni aspetti anche inquietanti di libertà di mercato, io direi appunto quando si ricevono certe risposte dagli operatori. Ma per capire di più noi abbiamo chiamato l'avvocato Enrico Maria Cotugno, che rappresenta l'autorità garante per le comunicazioni, l'autorità a garanzia delle comunicazioni, che in breve è chiamata anche Agicom. Anzi, vi invito anche a vedere il sito, è www.agicom.it. Buongiorno Cotugno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io sorrido per questa cosa, lei sorride, si indigna, le sembra una cosa normale, qual è il suo primo pensiero? No, io sicuramente non sorrido, mi indigno, e però diciamo lavorando nel settore ho fatto anche un po' il callo a questo genere di situazioni. Ecco, ma le volevo proprio chiedere. È una situazione che ogni tanto ci capita di. Ecco, ma le volevo chiedere proprio questo prima di entrare nel tecnico: è un caso eccezionale oppure ne ha già sentiti e ne sentiremo ancora? Perché posso andare per intuito, magari se accade in un paese arroccato sul cocuzzo della montagna, forse può anche accadere. Insomma, qui siamo a Padova, no? Sì, ecco, lei ha centrato perfettamente. Non è un caso eccezionale, perché su milioni di utenti 1, 2, 10 casi sono sicuramente eccezionali, però ne abbiamo già registrati diversi. Questo sinceramente è la prima volta che mi capita un caso del genere in un condominio che mi dicono essere praticamente in centro, quindi non in mezzo al cucuzzo, non sul cucuzzo della montagna, esatto. Ma pochi metri dal centro cittadino. Esatto. Allora a questo punto, quali sono, voglio dire, i confini della vostra autorità per intervenire su casi come questi? Oppure, se non avete autorità per intervenire, che cosa possiamo consigliare al nostro radioascoltatore o a coloro i quali si dovessero rispecchiare nella stessa situazione? Guardi, le strade da seguire sono due. La prima, per risolvere il caso diciamo concreto, è quella di avviare una procedura di controversia con l'operatore, quindi avviare un tentativo di conciliazione e poi rivolgersi anche al giudice, ferma restando la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per un provvedimento d'urgenza, come ha fatto per esempio un utente di Arezzo ottenendo ragione. Quindi qualunque sia l'operatore che si sceglie, il nostro radioascoltatore ferrarese o chi per lui può rivolgersi alla compagnia XYZ e dirgli: cara compagnia, ti ho scelto, adesso ti attivi tu per farmi funzionare il servizio. Sì, ecco. Diciamo, chiariamo un aspetto per i cittadini che è importante. Il servizio di portare il filo a casa di ciascun utente rientra in quel cosiddetto servizio universale, che è quello che deve assicurare la Telecom. Ecco perché la Telecom viene tirata in ballo, perché certo. La Telecom percepisce un contributo dagli altri operatori per fare questo servizio, cioè per assicurare che anche sul cucuzzo della montagna io ti porto il cavo. In questo caso, che mi sembra abbastanza semplice soluzione, allora può darsi che le cose siano un po' complicate, soprattutto per quello che diceva prima l'utente, cioè che il suo vicino ce l'ha. Certo. Allora, se il suo vicino ce l'ha è difficile pensare che ci siano problemi tecnici. Assolutamente. E lì potrebbe scattare il sospetto che ci sia un'attività un po', diciamo, strana da parte dell'operatore dominante, e allora ecco che veniamo alla seconda iniziativa che io suggerisco all'utente, che è comunque quella di segnalarcela, di segnalarci il suo caso sia a noi come autorità sia al Ministero delle Telecomunicazioni. Ecco, non basta questa puntata radiofonica ferrarese, o ci deve essere proprio un atto formale, lo dico proprio per il nostro radioascoltatore e anche per gli altri, ci vuole una lettera. Se il signor Ferrarese e tutti coloro che abbiano problemi vanno sul sito dell'autorità, come lei giustamente ha suggerito, troveranno un modello che va semplicemente compilato e poi mandato. Oh, fantastico, benissimo. Allora, ripetiamolo: agicom.it, andateci, compilatelo, lo dico anche a Ferrarese, al nostro radioascoltatore, e speditelo all'autorità garante per le comunicazioni. Ma poi lei, mi pare, avvocato Cotugno, stesse dicendo anche che bisogna comunque coinvolgere anche l'operatore scelto, dicendogli: guarda, io ti ho scelto, adesso vedi di non fare il furbetto, te la vedi tu con Telecom. Sì, diciamo che sicuramente sicuramente l'operatore scelto ha il dovere di comunicare, se ci sono problemi tecnici, i motivi del ritardo nell'attivazione. Fermo restando che comunque il problema tecnico, cioè l'impedimento della Telecom, non può comunque essere addebitato. Assolutamente. Allora, io ringrazio l'avvocato Cutugno per il suo intervento. Lascio la parola finale al nostro radioascoltatore. Ferrarese, allora, lei scriverà ad Agicom? Beh, naturalmente, insomma, mi sembra il minimo. Da qualcosa, insomma, il minimo. Certo, benissimo. Dopodiché, ovviamente, si ricordi anche di scrivere all'operatore che sceglierà, mettendolo di fronte ad un dato di fatto, e ci dia anche magari questa puntata, gli mandi anche una registrazione in modo tale che sappia che noi continueremo anche a seguire questi casi che abbiamo sentito dalla stessa viva voce dell'Agicom. Sono sicuramente rari, ma non poi così eccezionali. Anzi, invito anche i radioascoltatori a segnalarcene degli altri se dovessero esserci. Ringrazio il nostro radioascoltatore, dico grazie alla regia Giorgio Mattei, in studio Laura Fagin e Roberto Galullo, ricordandovi ancora la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi auguro una buona giornata, vi dà appuntamento a domani.